Andrews Wright è impazzito. Questo è X-Tape. Vai bro. Diamo inizio ai giochi, spingo come pochi. In crescita continua come Tamagotchi. Puro come Loki, ci sballo se ti infuochi. Fai duro con gli amici e siete un branco di frosci. Simo con le rime, magari con citar, ma si sa, siamo qua con i frasi, si sente. Questa pietra dura quanto pura, ma in quest'ora c'è una capaura. Parla e si vende sempre. Sono X come box, su sto beat spingo i pop. Stermino tutti i nemici come a Call of Duty Black Ops. Zero flop, zero rispetto per le divise. Mi tremano le gambe, ce l'ho nelle mutande quando mi fanno le perquise. Ciò che dite non mi tocca, la mia nocca detta in bocca. Fra una lotta in questo safari affondo la tua flotta. Ballare roll più in botta, sono in bancarotta negli affari. Affari spenti, contro vento, rappo fino all'esaurimento. Non mi prendi, io ti spengo, faccio due rime, ti stendo. Diamo inizio ai giochi quando arrivo col mio clan. Questo è X-Tape, godi come se fumi la scan. Come ad Amsterdam, sconvolti da mattina a sera. Mad Boys, la mia gente è solamente quella vera. Diamo inizio ai giochi quando arrivo col mio clan. Questo è X-Tape, godi come se fumi la scan. Come ad Amsterdam, sconvolti da mattina a sera. Mad Boys, la mia gente è solamente quella vera. Io sono Simo X, underground, Andrews Wright al sound. Questa roba nel tuo stereo manda il tuo cervello in down. Come a Nuketown, qui ci si scanna continuamente. Se è una busta si arrende, vuol dire che non vale niente. Senti come prende questo suono, spacca casse che batte tutti come Ken. Quando ti sento parlare, frate, mi viene nervoso come se rimango senza mappe, man. Yes, yes, io ne ho ancora per un po', giro con i bro. Frate, questo è il mio flow, la gente lo sente e fa oh. Diamo inizio allo show, chi mi sente poi dice blow. Questa vita è un enigma da risolvere, da paura come soul. Fammi un blow job, in questa città si respira smog. In camera mia, profumo di Maria, c'è più nebbia che in the fog. Questo è puro hip hop, senti come vado più potente di un tornado. Sono tornato più affamato e ora ho ricominciato, sono lanciato. Mi fermo solo al mio stop, dentro un coffee shop. Sono nel paese dei balocchi, me la sciallo e rido pensando che fate i duri ma siete finocchi. Diamo inizio ai giochi quando arrivo col mio clan. Questo è X-Tape, godi come se fumi la scan. Come ad Amsterdam, sconvolti da mattina a sera. Mad Boys, la mia gente è solamente quella vera. Diamo inizio ai giochi quando arrivo col mio clan. Questo è X-Tape, godi come se fumi la scan. Come ad Amsterdam, sconvolti da mattina a sera. Mad Boys, la mia gente è solamente quella vera.